Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento due volte la settimana, come sapete, con i settimanali, con i magazine italiani e stranieri. Vediamo insieme alcuni articoli tra i più interessanti, i più curiosi, cerchiamo anche un po' il filo conduttore tra temi che si rincorrono, come sempre succede, tra una testata e l'altra, talvolta anche tra l'Italia e l'estero. Beh, ovviamente sta prendendo via via più corpo l'attesa per quello che sarà l'evento sportivo di giugno e poi dei primi di luglio, cioè i mondiali di calcio in Sudafrica. Per chi non ama il calcio sarà una fase difficile. Significa un prolungamento delle discussioni, delle infinite attenzioni che la televisione, la radio e tutti i giornali dedicano a questo tipo di sport, a questo sport, ma per chi ama il calcio naturalmente è una grandissima festa. Allora, tra le tante proposte, sono veramente tante anche questa settimana, sui vari magazine, voglio partire dall'Espresso. L'Espresso in edicola da ieri, da venerdì, ha un reportage molto interessante affidato a Gianfrancesco Turano. Parla dei 10 uomini d'oro, assente il re Mida Beckham, ecco le 10 star strapagate del mondiale in Sudafrica, quindi gli stipendi, gli ingaggi, i guadagni insomma di questi calciatori che effettivamente possono guadagnare cifre impressionanti e il contrasto chiaramente andando a giocare in una nazione come il Sudafrica, soprattutto in un continente come l'Africa, diventa anche più stridente. Gianfrancesco Turano ci spiega sono tra questi 10 calciatori super pagati, ci sono figli della borghesia come Kakà, ragazzi dal passato difficile come Messi. Non sono gli ingaggi in realtà a farli così ricchi, spiega già nell'esordio l'articolo dell'Espresso, sono i contratti degli sponsor, perché il calcio è diventato un enorme business. Seguono numerose foto di questi protagonisti. La prima, ricorda Turano, è la prima volta che la Coppa che i campionati del mondo si giocano in Africa, dove ci sono 9 dei 10 paesi più poveri della terra, e i primi 15 giocatori che sono stati selezionati per il mondiale possono vantare ricavi annuali complessivamente per 322 milioni di euro, e questo vuol dire, ricorda Turano sull'Espresso, circa un terzo del prodotto interno lordo della Guinea-Bissau. Eppure nessuna invidia, quindi non si tratta di un articolo di denuncia, si tratta di un articolo invece che analizza il rapporto tra gli sponsor, che sono sempre più interessati al calcio, lo vedono come un veicolo formidabile di comunicazione, dal potere inesauribile nell'entrare nelle case della gente, e questi eroi del tempo nostro che appunto per il fatto di praticare così bene questo sport possono anche spuntare dei guadagni molto interessanti. E infatti Turano prosegue così: nessuna invidia, da Città del Capo a Johannesburg l'attesa per lo sbarco delle superstar del football è spasmodico. Tra l'altro si calcola che complessivamente l'investimento della FIFA, della Federazione Internazionale degli Impianti Sudafricani, sia stato di 1,2 miliardi di euro. Il guadagno previsto è più del doppio, 2,5 miliardi, vedremo se sarà poi confermato. Qua e là ci sono anche dei dettagli curiosi, ad esempio si scopre che Tevez potrebbe anche guadagnare di più, è l'opinione di uno dei consulenti citato poi da Turano, se facesse un intervento di chirurgia estetica, quindi sarebbe addirittura, come dire, più utilizzabile dagli sponsor in qualche modo. Vi leggo i magnifici 10 che sono riportati in una tabella che correda appunto questo articolo. Lionel Messi naturalmente è il primo, naturalmente è per chi segue il calcio e quindi ha ben presente questo fenomenale giocatore del Barcellona, 33 milioni di euro, poi Cristiano Ronaldo 30 milioni, Kakà con 18,8, seguito a poco, si fa per dire, da Thierry Henry con 18, poi Carlos Tevez 15,4 milioni di euro, Frank Lampard 14,2, Eto'o il centravanti dell'Inter 13,8, Didier Drogba 13 milioni, Carl Puyol con 12,8 e Wayne Rooney 12 milioni di di euro e 12 milioni di euro, 12 milioni e 600 mila euro, chiedo scusa. Questa la top 10 presentata dall'Espresso. Si avverte anche che gli italiani, avete sentito, ci sono dei giocatori impiegati o che sono stati impiegati in Italia, che conosciamo bene, però gli italiani, pur campioni del mondo, non si trovano in questa top 10, nessuno è al top dei maggiori guadagni, perché appunto per la capacità di utilizzare gli sponsor, in cui invece sembrano proprio eccellere queste stelle che vi ho nominato. Dei mondiali si occupa anche Focus. Voi forse sapete, Focus è un mensile che si occupa di divulgazione scientifica, nel modo più ampio naturalmente possibile, e non giustamente ha deciso di non ignorare questo evento, tra l'altro prendendolo da un'angolazione assolutamente particolare, cioè un'angolazione tecnologica. Perché? Perché i mondiali sono, ahimè, un evento televisivo. Io naturalmente vi invito a seguire tutto ciò che potete alla radio, a Radio 24, a seguire tutte le nostre trasmissioni, i nostri approfondimenti sportivi, ma è inevitabile che l'evento proprio della partita sia soprattutto un evento televisivo. E allora Focus si è proprio esercitato nell'andare a vedere come saranno ripresi i mondiali di calcio. Ci saranno riprese dall'alto, replay impossibili, ovviamente il 3D che ormai sembra irrinunciabile. Ecco come i prossimi mondiali cambieranno per sempre il linguaggio televisivo del calcio. Ci sono, viene ricordato in un grande schema che occupa due pagine, 33 occhi elettronici, lo schema ufficiale della FIFA, della Federazione per le Riprese dei Mondiali in Sudafrica. Parte dalla canonica telecamera a livello della tribuna centrale, e poi naturalmente si declina con telecamere sempre più inattese e inaspettate. Forse qualcuno tra gli appassionati già conosce la Spy Cam, che è questo ragno che sorvola appunto il campo dando delle prospettive effettivamente impossibili, cioè impossibili a qualunque umano che possa vedere la partita. Spider Cam, e poi ci sono riprese anche in tre dimensioni naturalmente. Focus fa anche un po' di utile riepilogo. Questi mondiali vedranno in gara 32 squadre, gli stadi saranno 10, le partite in tutto saranno 64 e sono a disposizione 90 arbitri. 33 telecamere, vi ho detto, in ogni stadio, le riprese e le trasmissioni saranno ovviamente globali in tutto il mondo. Ci saranno appunto punti di vista impossibili, le telecamere in tre dimensioni, che di cui vi dicevo, saranno 7. Vi segnalo qualcuna delle curiosità. Naturalmente il dolly, qui andiamo un po' in termini tecnici cinematografici, il dolly, cioè questo carrello su cui si fa scorrere la telecamera, carrelli robotizzati, crane, cioè bracci meccanici con all'estremità una telecamera rotante, poi ci saranno telecamere capaci di ruotare a 360 gradi montate su elicotteri. Sono telecamere, per chi segue quest'altro sport, il ciclismo, che si usano ad esempio nelle prese del ciclismo. Poi ci sono degli super slow-mo, questo è un termine forse non così noto, non così familiare, sta per super slow motion, cioè super rallentatore. Significa che sarà possibile vedere azioni a rallenti con 1000 fotogrammi al secondo, congelando appunto queste azioni a rallenti, e poi ultra slow-mo 250.000 fotogrammi, quindi una visione assolutamente impossibile all'occhio umano. E infine questa Spider Cam, questa che è stata inventata, ricorda Focus, da un'azienda austriaca, dal 2009 è usata da alcuni emittenti appunto per presentare le immagini delle partite di calcio. Ha fatto il suo debutto nel nostro paese nel 2009, è stata usata poi anche successivamente, abbiamo già potuto vedere questa particolare inquadratura dall'alto. Tutto questo su Focus di questo mese. E allora, visto che parliamo di calcio, restiamo ancora sul calcio, la prendiamo un po' invece sul ridere. Vi segnalavo prima i maxi guadagni delle star del calcio. Ho trovato una raccolta di battute e freddure molto divertente sempre sull'Espresso di questa settimana. Una di queste si lega veramente a questo argomento, dice: distrutta in un incidente la Ferrari di Cristiano Ronaldo, il rammarico del calciatore, 3 giorni di risparmi andati in fumo. Questa è una delle battute che trovate sull'Espresso, vi dicevo, perché l'Espresso presenta questo libro che si chiama Spinoza. Spinoza è un libro serissimo, è la raccolta in realtà di tutte le battute che sono state inviate, sono migliaia e migliaia, a un sito che è proprio spinoza.it. I curatori di questo sito, che sono Stefano Andreoli e Alessandro Bonino, hanno deciso di farne una raccolta. Tecnicamente questo tipo di raccolta di cose inviate da tutto il popolo che naviga in internet si chiama crowdsourcing, cioè ricerca dalla folla. Sono siti creati con contenuti appunto inviati dagli utenti, che poi vengono selezionati naturalmente dai curatori. Ci sono diverse battute anche molto divertenti tra quelle che vengono presentate come una sorta di antologia proprio dall'Espresso questa settimana. Alcune sono effettivamente, diciamo, comiche, altre invece possono essere quasi sarcastiche. Ad esempio, tanto per chiudere questa segnalazione, ve ne leggo un paio legate al mondo del lavoro. In Italia un laureato su due è precario, leggo, e quell'altro invece lo invidia. Un'altra molto simile dice invece: nasce lo sciopero virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che si lavorerà normalmente ma senza essere pagati. Beh, ma non potevano continuare a chiamarlo stage? Va bene, torniamo invece alle cose serissime, torniamoci in realtà passando ancora per l'umorismo. Su Donna Moderna questa settimana c'è una interessantissima intervista a una teologa che si occupa di Islam, e questa la affronteremo tra un attimo quando ci saremo fermati per le informazioni sul traffico. Ma parla del senso dell'Islam per lo humor anche set del Corriere della Sera. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo cominciato con una parte, se volete, un po' più leggera, parlando di calcio, parlando anche di freddure sullo stesso mondo del calcio, anche sul mondo del lavoro. Veniamo a un tema molto serio invece, che viene affrontato, come vi dicevo, da Donna Moderna. Donna Moderna ha questa interessante intervista questa settimana con una teologa islamica. La teologa si chiama Mona Siddiqui, io spero di pronunciare non troppo male il suo nome e comunque mi scuso in anticipo, ha 54 anni, è una delle più autorevoli teologhe islamiche, insegna all'Università di Glasgow in Gran Bretagna. Antonella Trentin l'ha intervistata per Donna Moderna e ha scelto per la sua intervista un titolo che potremmo definire in qualche modo provocatorio, nel senso che ci aiuta a riflettere. Dice: non è vero che l'Islam discrimina le donne. Naturalmente, poiché c'è un pregiudizio a questo livello, questo titolo fa riflettere, fa fermare su questa intervista. Già la presentazione accanto al titolo specifica: per il Corano sono alla pari degli uomini, la situazione delle arabe di oggi è simile a quella delle occidentali prima del femminismo. Questo sottolinea la professoressa Siddiqui, autorevole teologa musulmana. E come la mettiamo con il velo, chiede la Trentina, si tratta di una tradizione, non di religione. Questa è una delle precisazioni che trovate in questa intervista, ve la specifico meglio così come viene riportata proprio dalla Trentin. Si tratta di costumi sociali, non di religione, avverte. Per la sua apertura mentale la professoressa Siddiqui è oggetto di continui attacchi, ci sono commenti polemici ai programmi della BBC a cui collabora, ci sono parodie su un sito satirico, ci sono minacce anche via mail, ma è stata anche la prima teologa musulmana a parlare alla Università Pontificia San Tommaso d'Aquino di Roma, dove ha tenuto una conferenza che si intitolava La prospettiva islamica su ebraismo e cristianità. Naturalmente il rapporto, il ruolo della donna nell'Islam ruota, è un po' il tema centrale, il tema attorno al quale ruota tutta l'intervista. Viene chiesta come prima domanda: il Corano come considera la donna? Una persona alla pari dell'uomo, non un oggetto. Maometto, ricorda la professoressa Siddiqui, ha detto sulla donna cose rivoluzionarie per la sua epoca, che era il VII secolo. Ha stabilito, per esempio, che non poteva essere venduta, che poteva gestire denaro proprio e fare affari economici. Più oltre, sempre nella stessa intervista, Si chiede, non negherà però che oggi in tanti paesi musulmani le donne sono considerate inferiori agli uomini. Purtroppo è così, è la risposta della teologa, ma la religione non c'entra. La società ha preso una strada diversa da quanto scritto nel Corano. Con il passare dei secoli, certi modi di considerare e trattare le donne sono diventati tradizione. I problemi di noi musulmane, prosegue nella risposta, non sono molto diversi da quelli che avevate voi nel secolo scorso, prima del femminismo. Questa è la sottolineatura. Si chiede ancora, ma le donne che invece in altri paesi, in alcuni paesi come in Arabia Saudita, sono imprenditrici, guidano colossi bancari e petroliferi, ma poi sono costrette a farsi accompagnare su auto rosa da autisti uomini, come le considera? La risposta è: sono fortunate, provengono dalla aristocrazia colta, devono mostrarsi in pubblico coperte, è vero, farsi scortare ovunque da un uomo, ma quando parlo con loro non mi dicono di essere infelici, di vivere tutto questo come una restrizione. Incalza la Trentin, ma sono libere queste donne allora secondo lei? Dipende dai punti di vista. In Occidente la libertà si misura molto sull'autonomia di movimento, poter camminare da sole, andare in macchina, prendere i figli a scuola. Sono libertà che attirano anche tante musulmane e talvolta le spingono a cambiare paese. Infine, ovviamente non poteva mancare l'argomento del velo. La Trentin chiede, lei non porta il velo? Dice no, però preferirei non parlare di questo argomento. Non si arrende la collega, è impossibile perché ne parla tutta Europa. È proprio questo il guaio, è la risposta, anche da parte degli stessi musulmani. Io non capisco perché ne abbiano fatto una questione centrale invece di affrontare temi molto più importanti. Il velo è certo nello spirito del Corano, coprirsi il capo rievoca un valore caro ai musulmani che è la modestia. Come ho scritto anche in altre occasioni, molti di noi hanno il privilegio di scegliere il tipo di vita che vogliono nella società britannica, nelle società occidentali, ma dovremmo anche essere consapevoli che questa libertà richiede il rispetto di alcune regole fondamentali e della sensibilità altrui. Allora, visto che parliamo di donne, stiamo parlando di donne, restiamo comunque su un argomento femminile, perché così ci dice essere appunto il Venerdì che avete trovato ieri con Repubblica. Secondo una indagine citata dal Venerdì, c'è un'attività che qualsiasi sia la vostra religione continua a essere di prevalenza femminile, che è fare la spesa. L'indagine è stata fatta da Coldiretti Censis sulle abitudini alimentari degli italiani. La spesa è ancora donna, questo segnala il Venerdì, in più del 61% dei casi è lei a prendere le decisioni su cosa comprare da mangiare. Per la maggioranza delle famiglie, qui andiamo invece in questioni che non c'entrano con il genere, per la maggioranza delle famiglie la spesa frequenza settimanale il 60,7%, per quasi il 27% invece gli acquisti sono giornalieri, quindi insomma uno su tre, poco meno di uno su tre fa acquisti, fa la spesa tutti i giorni. Il 10% invece compra circa una volta al mese. Qual è il criterio che conta di più nella scelta? Per i tre quarti degli intervistati da questa indagine Coldiretti Censis, l'aspetto più importante è la provenienza. Il territorio è quello che garantisce bontà, qualità e sicurezza. È una convinzione che è più forte tra i residenti nelle regioni del sud e nelle isole, addirittura si arriva al 78%. Queste alcune delle indicazioni che trovate accompagnano un articolo di Alessandra Retico sul Venerdì allegato a Repubblica, avete trovato ieri allegato a La Repubblica. Parlando di spesa, si può fare subito un collegamento con quanto invece avrete forse letto su 7 con il venduto da giovedì con il Corriere della Sera, lo trovate anche naturalmente nei giorni successivi. Perché? Perché l'ultima crociata dell'America salutista è quella della guerra al sale. Il sindaco di New York, infatti, ci avverte Paolo Valentino, Michael Bloomberg, nonché la First Lady in persona Michelle Obama, si sono alleati per ridurre del 25% 100% il contenuto di sodio nei piatti dei fast food e dei ristoranti, da Starbucks a Kraft. Le grandi aziende alimentari fanno a gara per toglierlo dal menù, ma servirà davvero? In realtà l'articolo di Valentino è abbastanza scettico sul punto. È vero che ci sarebbero degli studi secondo i quali ridurre il sodio nella dieta degli americani, hanno attualmente una media di 3.400 mg al giorno, dovrebbero scendere a 2.300, potrebbe prevenire addirittura fino a 100.000 morti l'anno, diminuendo drasticamente l'incidenza dell'alta pressione sanguigna. Questo appunto il motivo per cui c'è un fronte di riduzione del sale, in qualche modo, naturalmente nello spirito come dire combattivo che talvolta si vede in questo tipo di iniziative negli Stati Uniti e che forse lascia un po' più scettici noi altri da questa parte dell'Atlantico. E allora, con questa indicazione alimentare sul sale, non so dirvi se anche noi dobbiamo, come gli americani, adeguarci e ridurlo, oppure se siamo in una media normale di consumo. Non ho trovato sui settimanali finora nulla di tutto questo, però con questa indicazione io vi saluto, vi do appuntamento a domani Magazine 24 ritorna sempre alle 8:30 con nuove segnalazioni. Ringrazio Pietro Lacorte questa mattina in regia, grazie anche a Margherita Aina e a Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo, se volete risentire questo come tutti gli altri programmi di Radio 24, il nostro sito www.radio24.it. A domani.